con COBOL della CMONA per parlare della sedicesima Critical Mass Interplanetaria a Roma dal 31 maggio al 2 giugno 2019. COBOL, ben trovato. Ciao, bentrovati a voi e grazie. Intanto saluto tutte le compagne e i compagni che ci ascoltano. Partiamo dalle basi. Cos'è la Critical Mass Interplanetaria? Allora, la critical mass, per semplificare al massimo, diciamo che, anzi, la critical mass interplanetaria nel particolare, per semplificare al massimo, è un raduno di ciclisti che in 3 giorni, in qualche modo, in una maniera un po' più radicale, diciamo, si riappropriano del tessuto urbano, del territorio urbano, delle strade, degli spazi urbani che generalmente sono all'appannaggio quasi solo esclusivamente delle automobili e dei mezzi a combustione fondamentalmente. Ed è, come dire, una specie di grande soviet dei ciclisti in cui appunto ci si raduna e che finalmente si pedala tutti assieme. Quest'anno ci sarà anche un tema che verrà esplicitato, che è quello del no borders, che magari ne possiamo parlare in maniera più specifica, ma fondamentalmente si tratta di 3 grandi pedalate con feste e ognuno può vivere un po' come vuole. Come dicevo, fondamentalmente è un riappropriarsi dello spazio cittadino, dello spazio urbano, ma lo si può vivere anche come una grande festa, come un incontro, insomma, diciamo, ognuno lo vive con lo stilo che vuole, basta che ci sia un'attitudine che sia quella antifascista, ovviamente, antisessista, antirazzista. E da quest'anno abbiamo specificato anche, in qualche modo è stato specificato dall'assemblea che ha curato, insomma, diciamo, di questo ritorno della critical mass interplanetaria a Roma, anche l'antispecismo, perché è visto come un valore fondamentale in qualche modo dell'essere, che se una battaglia in qualche modo per la libertà e per l'indipendenza o per l'autodeterminazione va fatta, l'hanno fatta per tutte le specie senzienti, quindi anche l'antispecismo. Ok, tutto era partito dagli Stati Uniti tanti anni fa. Sì, tutto parte molti anni fa dagli Stati Uniti, poi arriva in Italia, arriva in tante città italiane. A Roma la CMONA interplanetaria si è fatta per un sacco di anni, adesso poi per 4-5 anni è saltata ed è stata fatta in altre città, che va benissimo, insomma, ovviamente Roma non è che avesse nessun tipo di imprimato. Fondamentalmente ritorna a Roma dopo un po' di anni, soprattutto grazie allo sforzo congiunto delle cicloofficine popolari e degli spazi occupati, autogestiti, che si sono messi assieme e anche a molti cani sciolti che fanno parte dei ciclisti, diciamo, dei cicloattivisti, ciclomilitanti della nostra città, che si sono messi insieme e che hanno in qualche modo curato la logistica, diciamo, di questo ritorno a Roma, che sarà il 31 maggio, l'1 e il 2 giugno, con 3 tappe pedalate diverse. C'è un blog, un sito blog sul quale chiunque vuole trova le informazioni per aggregarsi. Ovviamente non sono specificati i tragitti, perché i tragitti non sono mai specificati. E quest'anno gli abbiamo voluto dare appunto un tema, che è quello del no border, quindi della mancanza, anzi, del combattere i limiti in qualche modo, e l'abbiamo voluto declinare in quella che è un po' la sua modalità più estrema, quello dell'alieno, quindi altro come l'alieno, sia l'alieno, diciamo, intanto l'alieno perché il ciclista, soprattutto a Roma, è un po' un alieno, in generale, quello che va in giro in bicicletta. Ed è anche un po' il sentirsi, l'essere orgogliosi di essere alieni, quindi di volerlo in qualche modo sottolineare, no? Con la nostra diversità, con la proposta che il ciclismo urbano e tutte queste forme di lotta in qualche modo si portano dietro, che poi possono essere connesse, linkabili con tantissime altre lotte che specificatamente i compagni portano in giro e promuovono. Ma questa è una lotta, diciamo, per la riappropriazione degli spazi contro il capitale, lì dove il capitale si identifica soprattutto con un certo tipo di mobilità, con un certo tipo di idea della città, con un design della città, diciamo un design atmosferico della città, lì dove si vuole imporre la città che sia fatta solo di scatole, che si muovono, di gente incastrata dentro queste scatole, che non comunica, che non parla, che in qualche modo è sempre più isolata, sempre più arrabbiata. Quindi questo è un modello, diciamo, questa metafora aliena vorrebbe in questo anno, quest'anno vorrebbe in qualche modo scardinare anche, diciamo, questa cattiva distopia che viene raccontata della città, che viene continuamente raccontata della città, di tutti gli spazi che ci stiamo vivendo sulla nostra pelle, fondamentalmente. Al di là comunque di questi 3 giorni, a Roma c'è un appuntamento fisso, vero, per i ciclisti? Esatto, di questa la critical mass, come in tutte le città del mondo, l'ultimo venerdì del mese c'è un appuntamento fisso di pedalata, diciamo, critica per la città, di pedalata militante, nella città in cui in qualche modo, come dicevo, si sottolinea questa esigenza di pensare, di immaginare lo spazio in un altro modo. E a Roma l'appuntamento tradizionale è, diciamo, per le 18-19 ogni ultimo venerdì del mese a Piazza Vittorio di fronte alle rotaie del tram, e lì ci si incontra anche, ci sono le cicloofficine popolari, ognuno proviene dalla propria esperienza, diciamo, però tutti uniti da esigenza di utilizzare la bicicletta come mezzo privilegiato per immaginare lo spazio vitale, fondamentalmente. E in questo senso le cicloofficine cittadine fanno rete. Esatto, sì, la Fiemona Interplanetaria è stata un'occasione anche per rilanciare questa rete di ciclofficine popolari. A Roma ce ne sono molte, diciamo, soprattutto a Roma Est, ce ne sono tantissime negli spazi autogestiti, ovviamente questi spazi che oggi sono sotto attacco e sono in qualche modo rimessi globalmente in discussione, e che invece sono capaci anche di tirare fuori tantissime cose, tra cui anche manifestazioni grandi, importanti, come sarà la Cemona, che è una Cemona che interesserà non solo l'Italia, perché verranno persone da tutti i ciclisti e tutta l'Italia, ma anche in parte europea, perché ci saranno anche moltissime partecipazioni europee. Quest'anno il Forte Prenestino è un po' il centro attorno al quale tutto si aggrega, perché lì ci sarà, anzi è già iniziato proprio oggi, proprio ieri è iniziato il ciclocamp, quindi questo campeggio di ciclisti per coloro che vengono da fuori Roma. E in questo ciclocamp, se saremo in qualche modo graziati dal tempo, si faranno anche, e si fanno in parte anche già facendo, dei laboratori, che sono laboratori, tra virgolette, diciamo, di artigianato, soprattutto relativi alla bicicletta, alla costruzione di biciclette particolari, di mostri su due ruote, ma anche di altre cose che riguardano sempre anche qui il riappropriarsi, no, del saper fare qualcosa in senso un po' più artigianale. Quindi ci sarà corsi di serigrafia, ci saranno appunto corsi di ciclomeccanica, quindi il Forte in questo diventa un po' il centro aggregatore, ma non solo, poi c'è, diciamo, tra i coinvolti principali c'è Acrobax, perché nella prima giornata, insomma, ci sarà la chiusura della Cemona, sarà ad Acrobax, poi ci sarà Oz, che in qualche modo Officine Zero, che compartecipa con i propri spazi a questi eventi, ci sarà la festa poi dell'Uno a Forte Prenestino, a conclusione della Cemona, e poi l'ultimo giorno, come tradizionalmente si fa, da Piramide si parte tutti e si va al mare. Allora ricordiamo la 16ª edizione della Critical Mass Interplanetaria a Roma dal 31 maggio al 2 giugno 2019. Lanciamo questo appello, come dicevo, la metafora sarà quella aliena, ovviamente non c'è nulla di obbligatorio, però chi parteciperà, se vorrà appunto indossare o comunque interpretare a suo modo questa metafora, noi avremo, insomma, nelle cucine stanno operando delle sorprese in questo senso, quindi, come dire, un segno che in qualche modo valorizzi l'essere alieni, sia in senso di chi ti tratta come alieno, ma anche in senso, come dicevo inizialmente, di noi che vogliamo valorizzare questo nostro essere altro. Ecco, chi vorrà in qualche modo portare un segno del proprio essere altro sarà anche più, no, più ben accetto, soprattutto più ben accetto, ma insomma anche meglio, come dire, ancora più in metafora rispetto alla Cemona di quest'anno. Io vi ringrazio, grazie veramente. Un abbraccio e a presto. A presto, ciao.